Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mentre mi allontanavo dalla scena, anch'io ricoperta di schiuma da barba e tremante sotto il mio asciugamano, mi sono girata un'ultima volta per vedermi intorno. In quel momento mi sono sentita a mio agio come poche volte nella mia vita. E da allora credo di appartenere a questo improbabile paesino scozzese. Ciao, mi chiamo Francesca Vaghi, ho 21 anni, abito a St. Andrews in Scozia, studio antropologia sociale ed inglese, spero di laurearmi quest'anno. Questa sorta di confusione tra musica e voci in una lingua incomprensibile che è l'inglese, o meglio lo scozzese, deriva da questa sorta di celebrazione che si chiama Raising Weekend. Arriva direttamente dalla Scozia e oggi siamo qui per raccontarvela. 349-238-6666 oppure voi siete qui Radio 24 per mettervi in contatto con me, con la diretta, ma soprattutto con la storia che ci ha raccontato Francesca. Francesca, che ha un nome e un viso anche, direi, molto italiani, in realtà ha una storia di spostamenti piuttosto rocambolesca, che arriva alla Scozia, dove si trova da 2 anni a questa parte, passando per il Messico. La sua è una storia di appartenenza, o meglio, è una storia che racconta il momento in cui si è accorta che apparteneva a qualcosa. Quel qualcosa, nella fattispecie, è un luogo, è un posto, una comunità di studenti probabilmente, o comunque un'università che si trova in Scozia, si chiama University of St. Andrews, è un luogo che esiste dal 1410, se avete un computer davanti andate a vedervi il mettete St. Andrews cattedrale e vi esce la tipica immagine che sia della Scozia a metà tra Harry Potter, cattedrali semiabbattute in riva all'oceano, prati verdi e luoghi dove sembra sempre autunno, più o meno. Francesca è lì da un paio d'anni, ma ci racconta la storia di questo Raising Weekend, che è in pratica un fine settimana in cui si celebra il rapporto tra le matricole, i nuovi arrivati, e quelli più grandi, che sono chiamati figli e genitori, padri e madri, quelli del terzo anno, mi pare. Sì, del terzo anno, mentre figli sono quelli del primo. È una storia che racconta questo, ma racconta soprattutto di altro. Racconta di quando all'improvviso sentiamo di appartenere a qualcosa o a qualcuno, e quindi vale anche per voi. 349-238-6666. Andiamo in Scozia, andiamo in un'università che si chiama St. Andrews e facciamocela raccontare da Francesca. Mi chiamo Francesca Vaghi e ho 21 anni. Sono nata a Torino, ma sono cresciuta a Città del Messico. È da 3 anni che vivo a St. Andrews, in Scozia, dove mi sono trasferita per l'università. Fra un anno dovrei ottenere una laurea in antropologia sociale e letteratura inglese. Durante la mia vita ho avuto occasione di sperimentare diversi shock culturali. Anche se avevo solo 4 anni, quando la mia famiglia si è spostata in Messico, il cambio da un continente all'altro è stato piuttosto notevole. Il Messico per me è casa mia, anche se per aspetto fisico e certi comportamenti sono diversa dalla maggioranza delle persone. E quando torno in Italia non mi sento mai a mio agio, meno che mai tra la gente della mia generazione. Da sempre ho la sensazione di non appartenere a nessun luogo. Se c'è una cosa che mi fa sentire messicana, è definitivamente che adoro il sole, adoro scherzare. Arrivo un po' in ritardo ai miei appuntamenti, che è una cosa tipicamente messicana. È una cosa che non mi fa sentire italiana e che non mi piace assolutamente vestirmi con abiti di marca che sono lussuosi o che fanno vedere che hai soldi. Nel 2009, facendo un salto dal Messico alla Scozia, ho avuto un ulteriore shock culturale. Mi ci è voluto parecchio ad abituarmi agli strani costumi di questo paese. Fortunatamente gli studenti di questa università provengono da luoghi anche molto più lontani del Messico, perciò non mi sento mai tremendamente sola. Per di più, l'università di St. Andrews è ricca di tradizioni pazzesche che aiutano gli studenti a sentirsi molto uniti. Ad esempio, nel mese di maggio di ogni anno ci tuffiamo nel mare del nord all'alba per scaramanzia. E soprattutto una di queste tradizioni si chiama Raising Weekend. Per tradizione gli studenti del terzo anno possono, diciamo così, adottare gli studenti del primo anno. Durante l'ultima domenica di novembre le cosiddette mamme organizzano un tea party dove si beve di tutto tranne che il tè. E poi alla sera si va a casa dei cosiddetti papà, dove di solito avvengono cose molto meno civili che durante il tea party. Il lunedì mattina presto le mamme si incaricano di vestire i figli con qualche costume orrendo e imbarazzante, mentre i padri consegnano una specie di ricevuta ai figli, che solitamente consiste in un grosso pezzo di rifiuto da un albero di Natale alla portiera di un'automobile. E poi si marcia verso il quadrato dell'università, dove tutti gli studenti del primo anno si riuniscono per lottare in una singolare battaglia. Munizioni, la schiuma da barba. E ovviamente io non sono stata esente da questa follia. La domenica del mio Raising Weekend sono stata a casa di un'amica di mia mamma, appunto, dove c'erano anche i miei fratelli e cugini accademici. Dopo averci fatto bere vodka e sambuca, ci hanno mandato in giro per il paese a fare una strana caccia al tesoro, ma è meglio non entrare nei dettagli. La sera poi sono stata a casa di mio cosiddetto padre, dove siamo andati avanti con dei giochi poco intelligenti. La mattina dopo, senza aver dormito molto, ci siamo ritrovati a casa dei miei genitori, appunto. Mia mamma mi ha travestita da lottatrice di wrestling, mentre la ricevuta che ci ha dato nostro padre consisteva in un grosso e pesante tronco trovato sulla spiaggia, con delle bottiglie e delle lattine piene di acqua gelida attaccate sopra. L'acqua ci cascava addosso ad ogni passo che facevamo. Il tragitto di 10 minuti da casa loro all'università mi è sembrato lunghissimo. Ero stanca, bagnata, e novembre non è di certo un mese caldo in Scozia. Il traguardo si faceva a un certo punto più vicino. Gli abitanti di St. Andrews ci guardavano dai marciapiedi, rassegnati a un'altra annata di comportamenti assurdi. La polizia cercava di contenere le orde di studenti in costume, alcuni blu dal freddo, tutti che tenevano bombolette di schiuma da barba strette in mano. Il cuore mi cominciava a battere forte. Quando sono entrata nell'università, non ho creduto ai miei occhi. Mi sembrava di vedere centinaia di pupazzi di neve impazziti. I miei amici, ormai irriconoscibili, sotto tutti quegli strati di schiuma, correvano da tutte le parti. Poco dopo qualcuno mi ha riempito l'orecchio di schiuma. Un secondo più tardi è arrivato qualcun altro a vuotarmi mezza bomboletta di schiuma in testa e un suo complice me l'ha spalmata su tutta la faccia. Con le dita quasi impietrite dal freddo ho schiacciato il tasto sulla mia bomboletta e sono partita all'attacco vendicativa. Poche volte mi sono divertita come quel mattino. Mentre mi allontanavo dalla scena anch'io, ricoperta di bianco e tremante sotto il mio asciugamano, mi sono girata un'ultima volta per guardarmi intorno. In quel momento mi sono sentita a mio agio come poche altre volte e da allora credo di appartenere a questo improbabile paesino scozzese. L'appartenenza è secondo me sapersi muovere nel giro di gente con cui vivi giorno a giorno, sapere come comportarsi, diciamo, cercare di non fare errori culturali. Non lo so se posso definire questo episodio come un momento chiave della mia vita, ma guardandomi indietro mi rendo conto che da quando ero arrivata a settembre fino a quella mattina di novembre, io continuavo a vivere con la sensazione di non riuscire ad adeguarmi in nessun posto. Da allora molto è cambiato e fortunatamente la certezza che un posto qui ce l'ho si rafforza di giorno in giorno. Sono grata di essere stata immersa nelle tradizioni di St. Andrews che da 600 anni riescono a dare un senso di appartenenza a migliaia di persone. Quest'anno ho adottato 5 figli e sarà forse per questo motivo che sento di avere veramente nutrito delle radici quassù. I lupi sono animali sociali che vivono in branco. Il branco è una sorta di grande famiglia composta da entrambi i sessi. Il branco si muove, caccia e si ciba insieme. Gli accoppiamenti avvengono all'interno del branco e tutti i componenti cooperano per la difesa e la crescita dei cuccioli. All'interno del branco esiste una gerarchia. Ci sono cioè soggetti dominanti e soggetti sottomessi, secondo una scala gerarchica. Il capobranco, o individuo alfa, è il soggetto a cui tutti gli altri sono sottomessi, cui tutti fanno riferimento e che prende le decisioni per l'intero branco. Lui è il primo ad avere accesso a tutte le risorse, il cibo, il luogo di riposo e le femmine. Dopo di lui, in scala, ci sono tutti gli altri, fino al più subordinato. La gerarchia non è rigida e può cambiare nel tempo. Maschi e femmine tendono ad avere gerarchie separate. I soggetti dominanti hanno accesso secondo un ordine preciso alle risorse e tendono ad instigare le attività del gruppo. Generalmente sono i soggetti più adulti e i più forti. I sottomessi, in ordine, accederanno solo in seguito alle risorse. Il più subordinato, che potrebbe essere il più giovane o il meno forte, è l'ultimo. Ci sono soggetti che hanno un temperamento dominante e tendono sempre a voler raggiungere il rango più elevato. Può capitare che questi soggetti, una volta maturi, riescano a risalire la scala gerarchica e a diventare dominanti. La vita in branco permette ai lupi di difendersi, di riconoscersi e di sentirsi più forti. Ho visto un documentario sui lupi una volta, quando ero ragazzino. E poi dopo ho letto un bel po' di cose su di loro e sulla loro vita. I lupi sono degli animali meravigliosi. Sono forti, sono intelligenti e sono spietati. Insomma, sono molto simili agli esseri umani. Quando ho letto la storia di Francesca, la prima cosa che mi è venuta in mente sono stati tutti quei documentari che avevo visto sui lupi e sul loro modo di vivere insieme. E mi sono venuti in mente perché, quando li vidi da ragazzino, io riuscii a comprendere per quale motivo non mi ero mai sentito così bene e così al sicuro come da quando ero entrato in una compagnia di liceali di Novara, con cui avevo iniziato a uscire da qualche mese. Non è un caso, ad esempio, che anche gli scout usino dei nomi che arrivano dalla letteratura sui lupi, come Akela, che viene dal libro della giungla, o anche solo usano lupetti per definire i più piccoli tra di loro. I lupi, così come i cani, in fondo, dicono di noi, della storia di Francesca e del nostro essere animali, molto più di quanto immaginiamo. Mattia scrive: spero di sentirmi parte di qualcosa il prossimo 1° dicembre al mio primo raduno del fan club di Elisa. Oppure Emanuele, mi sono sentito parte di un gruppo in una sera di fine estate in una chiesa di Fano con il coro giovanile italiano durante un pezzo del 600. 349-238-6666. È un po' più, diciamo, movimentata l'attività grazie alla quale Francesca si è sentita parte di un gruppo. Abbiamo caricato, tra l'altro, sul profilo Facebook Voi Siete Qui dei video che raccontano l'ultimo Racing Weekend di Sant'Andrews, che credo sia stato un paio di settimane fa. Chiediamola a Francesca. Pronto, Francesca? Eccoti, ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie. Quando è stato l'ultimo Racing Weekend? Settimana scorsa? Sì, no, 2 o 3 settimane fa. E com'è andata? Tu eri una mamma, giusto? Il termine è appropriato? No, a dire il vero ero stata mamma l'anno scorso, adesso sono nel 4° anno. Sei nonna? Sono nonna, sì. Quest'anno non ho fatto niente di speciale, ho solo visto la gente pazza che faceva cose ridicole dalla mia finestra. Tu che cosa avevi fatto fare ai tuoi figli lo scorso anno? Dimmi un paio di cose che li hai obbligati a fare. Allora, gli abbiamo fatto fare la caccia al tesoro, uh-huh. E poi gli abbiamo fatti giocare Twister, ma invece di usare il tappeto tipico di Twister abbiamo usato dei piatti pieni di cereali bagnati. Twister è quella cosa per cui c'è un tappeto con delle palle colorate e devi muovertici sopra, giusto? Ecco, esatto. Ok, sì. Ok, no, perché credo non sia una cosa molto italiana, insomma, non mi è mai capitato di vederla, però ho capito di cosa si tratta. Francesca, facciamo un passo indietro, perché tu adesso hai 21 anni e sei lì in Scozia. Che tempo c'è oggi a St. Andrews? Orribile, piove. Beh, era quasi una domanda retorica, però è un posto magnifico, mi sembra di capire. Sì, no, è molto bello, poi c'è questa spiaggia bellissima, no, è un paesino molto carino. Ma come ci sei finita tu lì? Allora, tu nasci a Torino 21 anni fa, giusto? Sì, poi, bene, sì. Poi quando tu hai 4 anni, cos'è che spinge i tuoi genitori ad andare a Città del Messico? Lavoro, ai miei non piaceva tanto essere in Italia, per caso mio papà un giorno ha aperto il giornale e ha trovato un lavoro in Messico. Scusami, che lavoro si trova sul giornale italiano in Messico? Ma non sono esattamente sicura, adesso mio papà lavora per Luxottica, credo che abbia iniziato lì con un lavoro un po' più... Più di basso profilo, però. Ok, semplicemente sì. È entrato alla base, insomma, del lavoro. E tua mamma invece cosa faceva? Perdonami, però queste storie sono sempre più complicate di come sembrino. Mia mamma fa l'agronoma, lavora in un centro di ricerca internazionale in Messico anche. E tu perché sei venuta? Tu di fatto sei messicana, cioè sei cresciuta da quando hai 4 anni fino ai 20, fino ai 19, giusto? Fino ai 18, sì. Ciao. Io sì, diciamo che quando torno in Italia ci chiamano sempre, sono arrivati i messicani. Sì, mi sento più messicana che italiana, direi. Sono finita qua in Scozia perché in Messico siamo andati a una scuola inglese e quando è arrivata l'ora di fare domande all'università ho fatto domanda all'università in Gran Bretagna. E cosa stai studiando lì? Me lo ripeti per piacere. Sì, studio antropologia sociale e letteratura inglese, è una dottorale. Benissimo, quindi allora se io conoscessi una persona di 21 anni che in Italia studia antropologia sociale e letteratura inglese, gli chiederei che cosa poi hai in mente di fare da grande. Lo chiedo anche a te che non studi in Italia ma in Scozia. Sì, no, è una molto buona domanda. Io vorrei fare ricerca, in effetti quando finirò, spero, quest'estate, voglio fare un master in antropologia sociale, dico antropologia medica, e spero di fare ricerca in quel campo. Quindi chiaramente non pensi di tornare in Italia a far ricerca? No, non credo. Ok, la lasciamo aperta così. Senti, andiamo a questo Rising Weekend che letteralmente tradotto in italiano è... Weekend l'uvetta. A dire il vero si chiama così perché nei tempi dall'inizio dell'università sì? Gli studenti davano un ramoscello di uvette ai loro genitori. Non so esattamente il perché, ma okay. È per quello che si chiama Raising Weekend. Senti, tu studi antropologia, in due parole che purtroppo non abbiamo troppo tempo, qual è il significato di questi riti di iniziazione, riti di passaggio? Perché l'uomo ha bisogno di far entrare in un gruppo qualcuno sottoponendole a questo tipo di torture, passami il termine. Ma sì, diciamo che nell'antropologia classica c'è sempre questa idea che c'è bisogno di avere un senso di affinità o di parentela in un gruppo. E i riti di passaggio sono un modo di provare la propria adeguatezza per essere in questo gruppo. Ok, senti, e poi ti saluto davvero Francesca. Tu hai scritto nel tuo racconto che quando torni in Italia non ti senti mai troppo a tuo agio con i tuoi coetanei italiani. Lo so, forse perché non ne conosco neanche molti dei miei coetanei, però non so, trovo che proprio socializzo in un modo un po' diverso. Senti Francesca, ti ringrazio per la storia e per le chiacchiere e in bocca al lupo. Magari ogni tanto ci fai sapere come va in Scozia e poi cosa fai da grande, insomma, se siamo ancora okay, qui. Certo. D'accordo? Grazie mille. Grazie mille. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Andrea scrive, ero parte di un gruppo ed ero un lupo di Toscana, 78esimo reggimento fanteria. Non è in Scozia, immagino, Francesca, nella foto che ci ha mandato, perché è in un luogo in cui c'è una luce calda e arancione, probabilmente è in Messico, ma potrebbe anche essere in Sud Italia, potrebbe essere a Siracusa, come ad Alghero, non lo so, dico dei nomi a caso, solo perché vedo dei caseggiati bianchi alle spalle. È una bella ragazza, Francesca, ha dei capelli lunghi, fluenti, scuri e ha decisamente una faccia italiana. Appartenere, verbo intransitivo. Essere di legittima proprietà, far parte di una famiglia, di un gruppo, di una categoria. Non comune, riguardare. In geometria, giacere su una retta. Etimo, latino tardo, appertinere. Data, secolo XIII. 349-238-6666. Mi scrive Stefano di Treviso: dopo aver fatto il cammino di Santiago di Compostela mi sento un pellegrino autentico, no bus, no taxi, tutto a piedi. Ma sempre, Stefano? Cioè, o solo quando fai il cammino? Sempre. Cioè, uno dopo che... se uno è pellegrino va sempre a piedi? 349-238-6666. Volevo rispondere a questo messaggio qua, che era... credo avesse fraintesa. Eccolo qua. In molti collegi universitari italiani, i nonni, in nome della goliardia, si compiono vere e proprie violenze e pratiche degradanti e nessuno sa come fermarli. Non fare un sorrisino... credo ce l'abbia con me. Le matricole passano notti da incubo in balia del branco e sono sole perché la società minimizza. Guarda, non faccio un sorrisino perché credo che siano due cose diverse. Un conto sono dei riti di passaggio come quelli goliardici più o meno di questa università, un'altra cosa è il nonnismo che ha a che fare con l'imbecillità, quindi credo proprio siano due cose completamente diverse. Quindi nessun sorrisino, tantomeno minimizzo, figurati, ho fatto servizio civile. E poi il mio messaggio preferito di oggi è questo di Letizia: caro Matteo, pensa che a Radio 24 ascolto solo te, qualche GR, altrimenti Radio Maria. Adesso voglio leggervi un pezzo che mi è venuto in mente, lo so, anche se non c'entra. Quando l'ho proposto mi hanno detto: ma che c'entra Tiziano e Margherita e un po' anche Paolino? E cioè, non c'entra, però c'entra. È un pezzo di Zanna Bianca. Sapete che Zanna Bianca, DJ Clondon, è l'altro lato di del Richiamo della Foresta. Cioè, Zanna Bianca è un... non mi ricordo più se è prima o dopo. Cioè, Zanna Bianca è un... lupo che ha un terzo di cane, e però vive con gli uomini, che per lui sono degli dèi. A un certo punto c'è una carestia e lui è costretto a scappare, ad andarsene per sopravvivere, e sopravvive esattamente come un lupo. Al principio dell'estate, durante gli ultimi giorni della carestia, Zanna Bianca incontrò Lip Lip, che fuggito nei boschi aveva vivacchiato miseramente. Zanna Bianca si imbatté in lui d'improvviso. Sgabbettando in direzioni opposte lungo uno scosceso di rupo, oltre lo spigolo di una gran roccia, si trovarono uno di fronte all'altro. Entrambi si arrestarono allarmati, scambiandosi per un attimo occhiate diffidenti. Zanna Bianca era in condizioni eccellenti. La caccia era stata fruttuosa e in quella settimana aveva mangiato molto bene. Era ancora pasciuto dell'ultima vittima divorata. Nell'istante in cui vide Lip Lip, il pelo gli si arruffò istintivamente lungo la schiena. Era la sensazione fisica involontaria dell'antica reazione che provava ai tormenti che gli infliggeva Lip Lip. Come nel passato, al vedere quell'odioso nemico, arruffò il pelo e ringhiò. Ma senza perdere tempo, agì fulmineamente, senza tentennamenti. Lip Lip cercò di indietreggiare, ma Zanna Bianca lo colpì con violenza, buttandoglisi addosso con tutto il peso del proprio corpo. Lip Lip perse l'equilibrio e si rovesciò sulla schiena. Zanna Bianca gli affondò i denti nella gola. Mentre Lip Lip agonizzava, Zanna Bianca gli girava intorno, osservando gli ultimi aneliti del nemico morente. Poi riprese il cammino. Pochi giorni dopo, egli arrivò ai margini della foresta, dove una stretta radura scendeva in un dolce pendio al Mackenzie. Su quello spiazzo era già stato un tempo, ma allora l'aveva trovato deserto. Ora invece vi era un accampamento. Nascosto fra gli alberi, si fermò a studiare la situazione. Quello che vedeva e che udiva gli era familiare. Il vecchio villaggio aveva cambiato posto. Ma non si sentivano più gemiti, ora. Suoni lieti giungevano al suo orecchio e nell'aria c'era odore di pesce. La carestia era finita e il cibo abbondava di nuovo. Egli uscì dalla foresta e si diresse alla capanna di Castoro Grigio. Il dio non c'era, ma c'era Cluck Cluck, che lo accolse con grida di gioia e con un bel pesce intero. E Zanna Bianca si accucciò ed attese il ritorno di Castoro Grigio. Roosting in the shade of the batteries, hanging from a rope in the gallery, pacing down the balance beam of half remembered holidays. No rush of light, no sound of belonging, no joy in building love in the finishing, chasing down an anodyne. Abbiamo scoperto, se vi siete persi alcune puntate recenti di Voi Siete Qui, che se vi abbonate ad iTunes, forse si sono sbagliati, ci sono 50 puntate a disposizione invece che le solite 5, ma non siamo sicuri, fate in fretta che prima che le tolgano. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata, in particolar modo a Tiziano Bonini, a Paolino Corleoni e a Margherita Ina. Grazie a Francesca, la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Lorenzo, sono di Bergamo, la storia di domani è la mia e parla di un figlio che si ribella al proprio padre, abbandona il lavoro, la famiglia e decide di ripartire da zero. Questa è la mia storia e io sono qui.